e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia. Benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Naturalmente nella giornata di oggi l'attenzione è sull'economia americana, per quel che avete sentito anche nel nostro giornale radio, ossia il dato rivisto al ribasso sul prodotto interno lordo, rivisto al ribasso ma meglio di quanto non si attendessero gli analisti. Gli analisti si attendevano una revisione al ribasso fino a un più 1,3, più 1,4%, mentre invece la revisione al ribasso è dal più 2,4 al più 1,6% precedente. E poi naturalmente ci sono le parole del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke. Vedremo se saremo in grado di farvele sentire. Comunque le commenteremo ampiamente, cercheremo di capire ancora una volta che strada veramente ha di fronte a sé la Federal Reserve per risollevare un'economia che ancora una volta, per stessa missione di Bernanke, fatica parecchio, soprattutto non solo fatica a crescere, ma ha dei seri problemi sul fronte dell'occupazione. L'analisi di Bernanke è abbastanza netta da questo punto di vista e attribuisce molto di tutto questo al settore immobiliare. Questo lo faremo nella seconda parte della trasmissione. Naturalmente tutto ciò ha un impatto sui mercati, anche se a dir la verità è un impatto relativo, perché hanno reagito male inizialmente alle parole di Bernanke. Iniziamo dal principio. Hanno reagito bene al dato sul prodotto interno lordo, poi hanno reagito male alle parole di Bernanke, e però adesso il Dow Jones guadagna un punto percentuale, il Nasdaq lo 0,67, lo Standard & Poor's 500 un punto percentuale anche qua, un 1,01%. Naturalmente, come sempre in questi giorni, nonostante le cattive notizie arrivino dall'America, chi va peggio è l'Europa, anche se resta in positivo. Francoforte guadagna lo 0,4%, Parigi lo 0,7%, Milano fa un po' peggio col FTSE MIB che cede lo 0,21%, il FTSE All Share lo 0,29%. Parleremo come sempre più avanti di borsa. Tra l'altro ci sono dei dati societari interessanti che hanno avuto un impatto sui mercati, in particolare su Intesa San Paolo e su Impregilo, che tra i titoli migliori, un più 4,28%. Nella prima parte del programma però affronteremo il tema, ne abbiamo parlato qualche volta nei giorni scorsi, delle merger and acquisition che si stanno mettendo in atto in questo periodo, ossia fusioni e acquisizioni. Per darvi un'idea, e per chi ha seguito la vicenda di Tripara, un'azienda che si occupa fondamentalmente di archiviazione dati, un'azienda tecnologica, quindi su questa si è scatenata una battaglia incredibile da un paio di settimane tra Dell e Hewlett Packard. Erano partiti a $18, l'ultima offerta, quella di oggi, è di $30 per azione, rilancio su rilancio, esattamente come un'asta. La giustificazione, o meglio la spiegazione che si dà in queste ore da parte di analisti e di economisti, è che i tassi sono bassi, insomma, e quindi alle aziende in qualche misura conviene anche indebitarsi per comprare altre aziende. Detto c'è una spiegazione che non ci convince un granché, e vedremo di capirne di più. Perché? Perché i tassi sono bassi non dalla settimana scorsa, ma decisamente da qualche mese, in particolare negli Stati Uniti. Sono a zero. Le notizie in breve di questa giornata. Naturalmente il numero per le vostre domande è il 349-238-6666, come sempre domande e osservazioni. Iniziamo come sempre dal petrolio, l'apertura in lieve calo a New York, un meno 0,2% a $73,20 al barile. Del prodotto interno lordo americano si è detto, i dati sono diffusi al Dipartimento del Commercio, è cresciuto dell'1,6% nel secondo trimestre rispetto al 2,4% della prima stima, e gli analisti stimavano una crescita tra l'1,3% e l'1,4%. L'elevato deficit commerciale americano pesa sulla revisione al ribasso del PIL statunitense. Il rosso è balzato a 445 miliardi di dollari, sottraendo al PIL 3,37 punti percentuali, la maggiore riduzione da quando è iniziata la raccolta dati. Parliamo del 1947. Per quanto riguarda invece l'indice di fiducia dei consumatori americani, calcolato da Reuters e dall'Università del Michigan, si è attestato in agosto a 68,9, mentre la stima preliminare era di 69,6. E poi ci sono le parole del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke. La crescita di recente, dice, è stata meno vigorosa di quanto ci aspettassimo, ma ci sono le precondizioni per un'accelerazione nel 2011. E ancora, sul mercato del lavoro si assisterà ad una dolorosamente lenta ripresa. Poi sul ruolo dei banchieri centrali, che da soli non possono risolvere i problemi economici. La ripresa è lontano dall'essere completata, gli squilibri globali restano un problema, il credito resta stretto, la crescita è stata troppo lenta, l'occupazione troppo elevata. La Fed, aggiunge però Ben Bernanke, ha degli strumenti e delle strategie e farà tutto il possibile per assicurare la ripresa economica. Ci sono bassi rischi per indesiderabile inflazione o deflazione. Poche ore prima, in attesa delle parole di Ben Bernanke, gli spread irlandesi, gli spread, ossia i differenziali di rendimento tra i titoli di Stato irlandesi, italiani, insomma, di cosiddetti dei paesi con maggiori difficoltà di bilancio pubblico, tra cui anche Spagna e Portogallo, hanno toccato nuove divergenze, nuovi record, diciamo, rispetto ai rendimenti dei bund tedeschi. L'Italia viaggia a 163 punti base, il Portogallo a 337, l'Irlanda a 366, ed è qua il record in realtà, la Grecia a 929, la Spagna a 192 punti base. E però le banche internazionali hanno utilizzato questa settimana, a quanto riferisce il Financial Times, un ammontare record di bond governativi spagnoli come garanzia da dare in cambio di liquidità, segno che la fiducia nei confronti di Madrid è in rialzo. Sempre dall'Europa, la Gran Bretagna, il PIL nel trimestre è cresciuto dell'1,2% nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre dell'anno e dell'1,7% su base annua, un'espansione che non si vedeva dal 2001. In Germania nel frattempo rallenta l'inflazione allo 0,9% dall'1,2% del mese precedente, risultando inferiore all'1,1% previsto dagli economisti. Sempre in termini di economia europea, ha parlato poco fa anche il presidente della Commissione europea, José Manuel Durão Barroso, ha parlato dell'Italia perché ha parlato tra l'altro dal meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, dice l'Italia sul fronte della crisi per alcuni aspetti è messa meglio di altri paesi. Perché? Perché ha un sistema bancario solido, non ha problemi di debito privato, un livello di concorrenza forte in diversi settori, un livello di disoccupazione stabile. E c'è un però, naturalmente. Grosse difficoltà sul debito pubblico e sul deficit di bilancio. E credo che su questo, dice Barroso, ci sarà molto da lavorare per ripristinare la fiducia. Per quanto riguarda sempre l'Italia, ci sono dati diffusi dalla Censis. Riparte la corsa del mattone, un più 3,4% per le compravendite 2010. In realtà non è una vera e propria corsa, insomma, è una ripartenza, un progresso, possiamo dire così. 630.000 unità, questa è la previsione del Censis. C'è comunque un 39,7% degli italiani che dichiara di non avere risparmi da utilizzare. E poi torniamo in parte sui temi che abbiamo toccato ieri ascoltando l'intervento di alcuni brani dell'intervento di Sergio Marchionne da sempre al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Se andiamo su un altro appuntamento estivo, che è quello che si svolge a Cortina d'Ampezzo, Cortina incontra. Ieri a parlare è stato l'amministratore delegato dell'ENI, Paolo Scaroni, con una dichiarazione che ha fatto un pochino discutere sull'assenteismo al sud. Sentiamolo. In ENI, per parlare di cose di casa mia, noi abbiamo un assenteismo nel sud Italia. Mi ha colpito questa cosa. No, mi ha colpito. Abbiamo un assenteismo del 10%. Nel nord Italia abbiamo il 5%. Nei nostri stabilimenti, in Francia, in Germania, in Olanda, in Repubblica Ceca, abbiamo il 2%. Allora, io dico, ma perché dobbiamo essere sottoposti a questa truffa permanente che abbiamo nei nostri stabilimenti del sud Italia, in cui la gente sta assente in modo da obbligarci di fare dello straordinario e quindi a rotazione si pagano degli stipendi suppletivi per i fatti loro, avendo come risultato complessivo che non siamo competitivi, e chi diavolo andrà a investire lì? Perché alla fine, se nel sud Italia non investe Eni o non investe la Fiat, ma cosa ci aspettiamo? Che lo facciano le multinazionali straniere? Questo era Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'ENI. Lo sentiamo anche in generale sulla crisi. La crisi non c'è. C'è la crisi dell'Europa e la crisi degli Stati Uniti. È una mezza crisi degli Stati Uniti. No, quindi cominciamo a localizzare dove il problema c'è. Allora, io ho l'impressione, penso, che stia, diciamo che la crisi si stia attenuando, che ne usciremo più lentamente di quello che forse vorremmo, ma ne stiamo uscendo, ne usciremo prima se saremo in grado di essere più competitivi con quella parte del mondo che la crisi non ce l'ha, perché noi non dobbiamo dimenticare che gli altri mica ce l'hanno la crisi, e quindi dobbiamo ritrovare quella competitività che abbiamo perso. Poi vi facciamo sentire anche di quel che ha detto Scaroni, un'idea niente male, un suggerimento che in realtà è arrivato a Scaroni dalla sua consorte e che riguarda la vicenda BP. Insomma, dice Scaroni, io quello che avrei fatto sarebbe stato chiedere aiuto alle altre compagnie che trivellano, che operano nel Golfo del Messico. Mia moglie ha detto, secondo me, l'unica cosa intelligente che io veramente non ho sentito dire da nessun altro. Ha detto, ma tu avresti fatto una cosa diversa. Dico, cosa avrei fatto io? Tu avresti chiamato a soccorso dal primo giorno le altre compagnie petrolifere che operavano nel Golfo. In questo modo avresti trasferito il problema da un problema della BP a un problema dell'industria. E devo dire, quando ci ripenso, penso che sarebbe stata la mossa intelligente. Infine, più propriamente sulla sua azienda, ma anche con una domanda che partiva dalla questione che sta un po' agitando gli animi in questi giorni, ossia la presenza degli investitori libici in Italia, il amministratore delegato dell'ENI, Paolo Scaroni, parla degli investimenti che invece ENI andrà a fare in Libia. Non è che loro danno soldi a me, sono io che metto i soldi per sfruttare questi giacimenti. Poi quando il giacimento è in produzione, ci dividiamo la produzione. Una parte viene a me per compensarmi tutti i costi che ho sostenuto, più un profitto, e il resto va al paese. Per esempio in Libia noi nei prossimi 10 anni investiremo 25 miliardi di dollari. Cioè non è che uno incontra gli angoli delle strade uno che mette 25 miliardi di dollari in Libia, no? E questo era dunque Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'ENI, a Cortina Incontra. Veniamo al primo argomento di questa giornata, ossia questa ripresa di fusioni e acquisizioni. Secondo un rapporto di Ernst & Young abbastanza recente, nel secondo trimestre del 2010 le operazioni di fusione e acquisizione nel settore della tecnologia sono aumentate del 43% rispetto all'anno prima, toccando quota 628. Certo che rispetto al 2009 è abbastanza facile, perché è stato un anno difficile. In valore l'aumento è del 32%, avendo raggiunto i 30,8 miliardi di dollari. Ma qua già siamo nel terzo trimestre, già nel terzo trimestre ne vediamo di nuove e parecchie, o quantomeno vediamo nuovi e parecchi tentativi di fusione e acquisizione, non solamente nel settore della tecnologia. Arriva già qualche messaggio da alcuni di voi, alcuni dicono qualcuna di queste operazioni di fusione e acquisizione sono molto fumo negli occhi, a volte si cercano fusioni solo per sperare che, legando assieme due sassi, questi possano galleggiare. La battuta non è male, ci arriveremo tra un attimo. Intanto saluto Franz Schulz, che è partner di Ernst & Young, che ci ha raggiunto al telefono. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, le notizie di queste ore sono parecchie, a partire dalla vicenda Three Park che citavamo prima, una vera e propria asta partita ai $18 e arrivata oggi ai $30, e chissà se continuerà a questo punto, perché insomma l'ultima offerta è di Hewlett Packard appunto per $30, dopo che sembrava che Three Park avesse accettato l'offerta di $27 per azione. E poi però c'è stata naturalmente l'acquisizione da parte di Intel di McAfee per 7,68 miliardi di dollari, la stessa Intel che sarebbe vicina al raggiungimento di un accordo per acquisire l'attività wireless di Infineon Technologies. Poi spiegheranno naturalmente loro ai loro azionisti insomma come mai procedono con queste acquisizioni. Nel frattempo annunciano esattamente oggi previsioni cattive per il prossimo trimestre. C'è tutta la vicenda di Potash, il colosso del potassio che vi abbiamo raccontato, si è parlato di una possibile OPA di Shell su British Gas, insomma ce ne sono veramente tantissimi in questo periodo, anche sul fronte minerario. Insomma, la vicenda Potash sul fronte materie prime non è la sola, tra le altre cose ve l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Schulz, che cosa sta succedendo? Ma io andrei abbastanza cauto con previsioni particolarmente ottimistiche. Sono le ultime di cui ha parlato lei, sono eclatanti per dimensione, ma in termini di numerosità io sono ancora piuttosto pessimista su una ripresa evidente e costante dell'operazione di M&A. Certo, queste fanno pensare, ma la cosa che mi sorprende maggiormente è quella di BHP Billiton su Potash, perché ha dimensioni colossali, sono 30 miliardi di dollari. Ma oggettivamente abbiamo visto una certa ripartenza, soprattutto a guardare le dimensioni di tutto questo. Voglio dire, anche l'acquisizione di Intel di McAfee da parte di Intel non sono propriamente noccioline. Secondo lei c'è un motivo particolare? Ma dunque, innanzitutto non dimentichiamoci che i grossi colossi della tecnologia sono ancora pieni di cassa, e quindi il ricorso al debito, che ha tenuto lontano molti acquirenti, per loro è un problema relativo. Non dimentichiamoci poi di una cosa, che le banche non è che frenano le attività di M&A perché prima i tassi erano alti, adesso sono bassi, o viceversa. Il problema è che le banche difficilmente si fidano di previsioni particolarmente effervescenti da parte di chi compra, e quindi col livello dei tassi c'entra ben poco. In alcuni settori però le previsioni è più facile poterle fare. Per esempio, sui consumi di potassio nel mondo, se si guarda le statistiche più lunghe, diciamo gli ultimi 3-4 anni, non ha subito grosse riduzioni, e quindi non si vede il perché ci si debba aspettare brutte cose dal futuro. Sul fronte della tecnologia, il caso di Intel McAfee, McAfee continua a rilasciare software di data storage interessantissimi e in continua crescita. È uno dei settori dell'informatica che ancora riserverà grosse sorprese. Quindi, voglio dire, da questo punto di vista, gli azionisti degli acquirenti, secondo me, possono stare relativamente tranquilli. Sì, certo, e però dall'altra parte, e così rispondiamo anche alla domanda che leggevamo via SMS che ci è arrivata poco fa da un ascoltatore, certo qua è un'azienda di hardware che si compra un'azienda di software fondamentalmente, cioè non è che i due sassi alla fine, cioè che veramente sono due sassi, alla fine non galleggiano. Dunque, premessa, io sono un esperto di M&A, di fusioni e acquisizioni, non sono un tecnocrate. Sì. Io però capisco che effettivamente possa esserci un interesse forte anche per chi produce hardware, e hardware quello più hard possibile, perché qui parliamo di chip, che siano interessati ad acquistare chi si occupa di sicurezza come McAfee, perché ormai le due cose vanno a braccetto, non è possibile immaginarsi che bisogna per forza transitare da un laptop per poter avere dati sicuri e non rendere sicuro addirittura il microchip che il lab contiene. Quindi come scelta strategica mi sembra azzeccata, non mi sembra una cosa campata per aria. All'ascoltatore che ci dice non abbiamo evidenziato che le acquisizioni di oggi avvengono cash, almeno quelle che abbiamo visto fino adesso, invece contro carta, questo invece dipende sì dai tassi, no? Beh, ma innanzitutto sono pieni di cassa, tutti e tre gli acquirenti sono pieni di cassa. E voglio dire, il tasso, io ho sempre avuto, come dicevo prima, ho perplessità sulla questione dei tassi. I tassi sono bassi da mo', e è un anno che vediamo tassi sostanzialmente contenuti, e quindi ci saremmo aspettati grosse operazioni anche 6 mesi fa, 3 mesi fa, cosa che è avvenuta meno. C'è più tranquillità in determinati settori sulle prospettive di crescita, c'è un pochino meno paura sul futuro. Ecco, anche se poi, come si diceva, alla fine Intel qualche segnale negativo oggi al mercato l'ha dato. Ecco, poi la vicenda Tripar, che devo dire ci ha veramente stupito, nel senso, nel giro di 10 giorni si è passati, come si diceva, dai $18 per azione dell'offerta iniziale ai 30 di oggi, ed è un rialzo notevole a colpi quasi immediati tra Dell e Hewlett Packard, cioè una vera e propria asta. Come mai? Che cos'ha questa Tripar di così straordinariamente interessante? Dicevo, il settore delle soluzioni per lo storage e del data warehousing è un settore molto effervescente, in forte crescita. Le soluzioni tecnologiche nuove sono pochissime. Tripar è considerata una delle aziende di spicco in questo. È merce rara da trovare sul mercato. Capisco che è anche una forma di diversificazione sia per HP che per Dell, uscire dall'hardware tradizionale e andare su delle soluzioni che sono ricercate da chiunque, dalle grandi aziende ma anche dal piccolo utilizzatore. Se penso al fatto che ormai buona parte dei computer che si acquistano hanno un software integrato per fare il backup dei propri dati in automatico via internet, questo un anno fa non c'era, adesso ce l'hanno tutti. Quindi quasi impensabile. Questo è il quadro della situazione. Io la ringrazio Franz Schutz, che è partner di Ernst & Young, per essere stato con noi, e buonasera. Grazie a voi, arrivederci. Andrea Fontana, Radio Cori Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, le borse hanno oscillato tra il dato sul prodotto interno lordo e le parole di Bernanke, poi si sono assestate in positivo. Sì, grazie a uno spunto finale le borse europee hanno saputo un po' rialzare la testa dopo gli sbandamenti che abbiamo visto nel pomeriggio. Positivo il dato sul PIL statunitense, anche se chiaramente si è indicata una contrazione della crescita rispetto alle precedenti previsioni, perché è stato rivisto da più 4 a più 1,6 nel secondo trimestre, ma gli analisti si aspettavano più 1,3%. mentre le parole di Bernanke, presidente della Fed, hanno inizialmente preoccupato i mercati, parlava di crescita lenta nella seconda parte dell'anno, ma anche di una Fed pronta a interventi diciamo non convenzionali per dare fiato alla crescita. Questo ha un po' originato gli sbandamenti nel mercato, ma che poi ha saputo recuperare soprattutto grazie diciamo così al faro di Wall Street che sta guadagnando oltre l'1% e quindi ha dato un po' fiducia anche agli altri indici. Questo per quanto riguarda il quadro generale, e poi ci sono molte storie singole che sono quelle che riguardano le aziende che hanno presentato i conti, in particolare il Monte dei Paschi, il Monte dei Paschi ieri in realtà, però insomma l'impatto sul mercato si è avuto oggi, Intesa San Paolo e poi Impregilo. Ci arriveremo, ma prima i tecnologici, abbiamo citato Intel, si diceva che ha prospettato un trimestre peggiore delle attese e quindi da questo lato giù tutto, no? Sì, giornata per i tecnologici, soprattutto nel pomeriggio, piuttosto difficile, sotto pressione, ha pagato ST Microelectronics, ha perso il 3,5% a Milano, ma non è andata molto meglio a Infineon a Francoforte, che ha perso quasi il 4%. Appunto l'indicazione di Intel, che ha rivisto, come tu dicevi, le previsioni del giro d'affari per il terzo trimestre al ribasso, hanno un po' dato diciamo preoccupazione un po' a tutto il settore, che è stato il settore peggiore in Europa, tant'è vero che l'indice complessivo europeo ha perso lo 0,7%, mentre gli altri sono stati quasi tutti positivi. Questo per quanto riguarda i tecnologici. Veniamo ai bancari dai due lati del listino, mettiamola così. Intesa, che c'è dell'1,95%, ma è vero anche che ieri era andata parecchio bene, e il Monte dei Paschi invece guadagna il 5%. Sì, per quanto riguarda Intesa San Paolo i conti non si sono troppo discostati da quelle che erano le attese e con appunto un utile semestrale che si è attestato sul miliardo trimestrale che si è attestato sul miliardo di euro. Era sostanzialmente nelle attese, le prese di benefici infatti sono un po' scattate all'uscita dei conti, come spesso succede. Ieri aveva fatto un'ottima performance e oggi il mercato l'ha un po' penalizzata, ma comunque è riuscito a chiudere diciamo lontano dai minimi. Per Monte dei Paschi invece un'ottima performance, più 5%, oggi dopo i conti positivi pubblicati ieri e anche la conferma da parte del direttore generale Antonio Vigni di un ritorno al dividendo sull'esercizio corrente, sull'esercizio 2010, oggi diverse case d'affari hanno migliorato la loro visione sul titolo e questo ha dato la possibilità al Monte dei Paschi di avvicinarsi molto e sfiorare addirittura quota 1 euro nel corso del pomeriggio. Sì, tra l'altro nella conference call con gli analisti l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera, ha detto che siamo soddisfatti delle cifre del trimestre e del semestre tra l'altro che si è chiuso con un utile netto di 1 miliardo 690 milioni di euro, e dice: sono in linea con i nostri target, non siamo felici e staremo felici quando torneranno ad essere i risultati che tutti voi conoscete molto bene, però si vede un utile 2010 in miglioramento. Altro titolo sotto i riflettori in positivo anche qua, un guadagno del 4,5% in Impregilo. Sì, anche per Impregilo oggi era giornata di conti semestrali e appunto la prima parte dell'anno si è chiuso con una crescita degli utili del 6% a 56 milioni, ricavi in inflessione a 1 miliardo rispetto a 1 miliardo e 4 dello stesso periodo dello scorso anno, ma comunque diciamo che le indicazioni sulla seconda parte dell'anno sembrano essere positivi. In più si aspetta anche qualche gara importante per Impregilo, quella dell'autostrada Livica che è già emersa nel corso del mese di agosto, e anche per lunedì sono attese le offerte, e Impregilo partecipa anche a questa gara per costruire la metropolitana di Panama, quindi c'è una certa effervescenza intorno al titolo della società di costruzione di Sesto San Giovanni. E bene, oggi sempre per rimanere tra i titoli migliori anche Telecom. Sì, una bella Telecom che ha sfruttato innanzitutto il buon andamento dell'intero settore delle telecomunicazioni, che oggi è stato tra i migliori, e sono andate molto bene anche Vodafone, Deutsche Telekom sugli altri mercati, e complessivamente l'indice ha registrato un rialzo del 2%. Va detto che poi nel pomeriggio è emersa anche questa notizia relativa al dissequestro da parte della Procura di Roma di 290 milioni di euro che erano stati bloccati nell'ambito dell'inchiesta su Telecom Italia Sparkle, e questo ha dato molto fiato al titolo. Il mercato chiaramente ha premiato questa notizia e il titolo ha chiuso più 3,9% a 1,066 euro. Premiata invece all'espansione all'estero l'ottomatica, ci sembra di capire. Sì, per quanto riguarda l'ottomatica, oggi qualche giornale americano ha riportato che il consorzio guidato all'ottomatica ha superato la prima fase della gara per l'assegnazione della gestione delle lotterie nell'Illinois. Sono in gara due concorrenti, il consorzio Camelot e quello GTEC, che è appunto la controllata di l'ottomatica, quindi questo ha portato attenzione sul titolo, che ha guadagnato l'1,5%. Una domanda, Andrea, non so se avete dettagli su questo, però ci ricorda giustamente un ascoltatore via SMS l'ormai mitica vicenda di Olidata, forse si è un po' scordata negli ultimi giorni, che continua ad oscillare in maniera vistosissima. Insomma, ieri il guadagno era a due cifre, oggi la perdita è di nuovo a due cifre, il calo, se non vado errato, è del 30%. Sì, la volatilità sul titolo ormai non conosce sosta, ha perso sì, 30%, quasi 31%, e ancora ieri la società è stata chiamata da Consob a commentare, diciamo così, a fornire delle ulteriori informazioni in merito a questa volatilità borsistica che sta accompagnando il titolo per tutto il mese d'agosto. La società ha ribadito ancora una volta di non essere a conoscenza di alcuna iniziativa da parte di Acer Europe, che è l'azionista di riferimento di Olidata, anche se non ha la maggioranza assoluta, nessuna iniziativa di Acer per lanciare un'OPA sul titolo della società. Era questa voce che aveva spinto il titolo nelle settimane scorse, e diciamo su questa notizia per il momento il mercato ha deciso di prendere beneficio. Vedremo se il titolo saprà placarsi nelle prossime settimane, prossimi giorni. Vedremo che cosa succederà, perché questa è anche una storia di borsa interessante. Grazie nel frattempo ad Andrea Fontana di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera, Andrea. Grazie a voi, buona serata. Prima di passare all'altro argomento di giornata, che è l'economia americana, vi diamo un quadro finale. Non prima di avervi detto che chi si attendeva la semestrale di risanamento, visto che di semestrale abbiamo parlato, dovrà ancora attendere al 6 settembre prossimo. Perché? Perché il Consiglio di Amministrazione ha deciso che deve valutare il possibile impatto economico dell'indagine della magistratura milanese sui lavori di bonifica appunto del quartiere Santa Giulia. Il resto della giornata, si diceva, Saipem in guadagno dell'1,75%, Autogrill dell'1,66%, l'ottomatica si è detto di 1,5%, CIR dell'1,48%, Italcementi dell'1,42%, Azimut dell'1,33%. L'1,2%, poco più, guadagnano Terna, Exor ed Enel, Generali l'1,12%, Mediaset l'1,10%, sopra il punto percentuale di guadagno Pirelli, Parmalat e Tenaris, Fiat appena sotto lo 0,97%. Luxottica guadagna lo 0,83%, Campari lo 0,81%, Fondiaria Sai lo 0,80%, lo 0,7% Buzzi Unicem, lo 0,65% A2A. Bulgari lo 0,61%, mezzo punto percentuale per Unipol e Mediolanum, poco meno per Geox. UbiBanca in guadagno dello 0,35%, Eni dello 0,26%, Prismian dello 0,24%. Banco Popolare su dello 0,17%, Mediobanca dello 0,16%, Atlantia dello 0,07%, poi ci sono i titoli in negativo, Finmeccanica che c'è dello 0,19%, Snam Rete Gas dello 0,34%, Unicredit dello 0,37%, Ansaldo STS mezzo punto percentuale, Intesa San Paolo si è detto un caro dell'1,95%, ST Microelectronics giù del 3,41% si è detto, così come si è detto della Banca Popolare di Milano, i risultati non sono piaciuti, meno 4,47%. In tutto ciò l'euro è in deciso rafforzamento, 1,2757 contro dollaro, mentre sul mercato americano le cose vanno bene, il Dow Jones guadagna l'1,06%, il Nasdaq lo 0,78%, lo Standard & Poor's un altro punto percentuale. Ed è proprio in America che andremo tra un attimo per fare un punto dopo le parole di Bernanke e dopo il dato sul prodotto interno lordo. E veniamo appunto al prossimo argomento, che è l'economia americana. Oggi ci sono i dati sul prodotto interno lordo, come vi dicevamo, è stata rivista a ribasso la crescita americana, ma meno di quanto non si attendessero gli analisti. Era il 2,4% la prima stima ed è cresciuto dell'1,6 contro una stima dell'1,3, come ci diceva poco fa Andrea Fontana. Alcuni stimavano anche l'1,4, comunque. E poi c'è l'indice fiducia del Michigan, ad agosto a 68,9 contro una stima preliminare di 69,6. E poi, soprattutto, ci sono le parole del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke. Dice la crescita è lenta, ma nel 2011 migliorerà, ripresa dolorosamente lenta per l'occupazione. Ancora, le banche centrali da sole non la risolvono, ma gli strumenti per fare qualcosa ce li abbiamo e siamo pronti a fare di più se necessario. Questo è il quadro delle parole di Ben Bernanke. Io saluto Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Buonasera Mario. Buonasera, buonasera. Allora, inizierei proprio dall'analisi fatta da Bernanke che mi sembra abbastanza chiara, insomma, il problema fondamentale, no? I problemi fondamentali di occupazione e di produzione, di output, dice Bernanke, sono dovuti essenzialmente ad un mercato immobiliare statico, comunque sono dovuti principalmente a questo, mi sembra questo uno degli snodi sul fronte dell'analisi. Poi verremo alla questione delle soluzioni, che forse è un pochino più complicata. Ma guarda, io direi che prima tu citavi appunto la correzione all'1,6 e qualche analista dice beh, in effetti un dato migliore delle aspettative non significa nulla, il dato è pessimo. Comunque che l'economia americana già nel secondo trimestre mostri un tasso di crescita dell'1,6% quando avrebbe dovuto crescere al 3,5-4 e produrre centinaia di migliaia di occupati, significa che la ripresa si è fermata prima del tempo, significa che davanti a noi ci sono dei momenti di volatilità difficili, significa che non ci sono molte soluzioni se non quella che ha così promesso proprio Bernanke, poi questo è uno degli elementi chiave del suo discorso, e cioè di essere pronto a intervenire con massicce iniezioni di liquidità sul mercato obbligazionario nel caso potesse esserci una qualche difficoltà sul mercato del credito, perché ormai coi tassi di interesse a questo livello non si può fare più altro, insomma. È una strada abbastanza stretta, Mario, quella di Bernanke. Sì, molto stretta, perché vedi c'è una resistenza di fondo ormai del consumatore americano, dell'americano medio. Ci sono delle scadenze davanti a noi che rendono questo tracciato ancora più preoccupante. Domani usciremo tra l'altro sulle 24 ore appunto con un'ampia analisi su questa situazione, ma queste scadenze sono per esempio la fine del pacchetto di stimoli dell'economia che a settembre cesserà. Perché il settore immobiliare è andato male? Perché c'era un credito fiscale di $8,000, quindi parliamo di cifre relativamente contenute, che era in vigore per oltre un anno, che è scaduto a luglio. Come è mancato l'appoggio pubblico? Il settore si è afflosciato, ha perso il 25%. Quindi quando Bernanke dice colpa del settore immobiliare, beh sì, però è colpa anche di una situazione dinamica in cui non si è smaltito l'eccesso che si è accumulato negli anni passati. Situazione corridoio, come dicevi tu, tanto più stretto, in quanto a fronte di queste esigenze di stimolo, di cercare di tenere su l'economia e così via, così via, beh, c'è un disavanzo pubblico del 10%, c'è la possibilità di della scadenza di nuovo alla fine dell'anno delle agevolazioni fiscali, dei tagli fiscali di Bush. Quindi ci sono una serie di fattori in movimento di cui non si conosce bene l'esito o comunque la composizione finale, e dunque in questa situazione di incertezza i mercati restano nervosi. Oggi diciamo siamo rimasti in territorio positivo, però ecco, guardando in avanti ci sono altre variabili, altri dati che secondo me terranno una situazione di incertezza e volatilità. Allora Mario, si diceva del settore immobiliare che è solo un aspetto di quel problema di consumi che sta un pochino affliggendo l'economia americana, che storicamente è trainata esattamente dai consumi. Ora, c'è chi dice il timore è che passate le elezioni di midterm, proprio per la condizione di bilancio della quale ci parlavi tu, può darsi che ci sia una stretta fiscale. Quindi c'è una sorta di timore da parte dei consumatori nello spendere, perché dicono arriva la bastonata. Sì, questo è il timore, però i repubblicani stanno facendo una campagna molto aggressiva proprio per proteggere i tagli fiscali di Bush. La vera battaglia, il vero braccio di ferro politico è su questo. Barack Obama ha promesso di fare aumenti fiscali per poter rimpinguire un pochettino le casse dello Stato, e d'altra parte se lo farà rischierà di affossare ulteriormente l'economia. Se vincessero i repubblicani alle elezioni di novembre, come ci si aspetta, beh, allora a quel punto forse la Casa Bianca può avere l'alibi di cedere a quella che è stata una risposta dell'elettorato, a una nuova dinamica politica a Washington, e dunque rinunciare a questo obiettivo che era stato dichiarato e definito irrinunciabile da parte dello stesso Presidente Obama. Sì, quindi ci sembra di capire che la strada stretta non sia solamente quella di Bernanke, è anche quella di Obama, cioè il governo americano a questo punto ha di fronte un problema, perché deve contenere il deficit di bilancio da una parte, dall'altra parte però rischia di comprimere ancora di più l'economia. Anche qua la strada da prendere non è per nulla facile. Infatti è un'equazione, come ti dicevo, a incognite mobili. Non è chiaro come andranno a comporsi fra di loro, c'è anche un problema di debito molto forte, un debito che poi a un certo punto andrà in scadenza. Certo, il tesoro americano potrà riemettere obbligazioni, ma non è chiaro se poi i cinesi saranno sempre pronti a finanziarlo, si troveranno sempre acquirenti pronti a entrare in un'economia americana che dimostra di essere diciamo meno limpida, forte, energica di quello che negli ultimi decenni ci aveva detto di essere. Grazie dunque a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, per essere stato con noi. Buonasera Mario. Ci chiede su delle attese per quanto riguarda la Bank of Japan, ossia che oggi ci dovevano essere delle decisioni da parte della Bank of Japan, la banca centrale giapponese, in realtà non ci risulta. E certo rimane sullo sfondo il tema del cambio dello yen. Questa mattina è intervenuto il primo ministro Naoto Kan dicendo siamo pronti a fermarlo, in pieno accordo appunto con la BOJ, ossia la banca centrale giapponese. È veramente tutto per questa puntata e per questa settimana di Focus Economia. Io ringrazio Mauro Del Corno in redazione e Carmelo Lauricella in regia. Ringrazio naturalmente tutti voi per l'ascolto. Una buona serata da Simone Spezia. Focus Economia torna lunedì dopo il GR delle 17 con Sebastiano Barisoni.